Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Non vi descriverò tutto lo splendore della sepoltura del mio caro figlio Brian. A che giovano le piume di struzzo sul carro funebre? O le uniformi agghindate dagli araldi vestiti a lutto? Ammazzai con una fucilata il fatale cavallo nero che aveva ucciso il mio bambino. Lo feci proprio all'uscita della cappella dove l'avevamo deposto. Ero tanto fuori di me che avrei potuto tirare un colpo anche a me stesso. Non fosse che è un'offesa a Dio e alla legge, forse avrei fatto meglio a farlo. Perché che cos'è mai stata la mia vita da quando quel dolce fiore mi fu strappato dal seno? Un seguito di miserie, ingiustizie, disastri e sofferenze fisiche e morali, quale non si è mai abbattuto su nessun altro cristiano. Lady Lyndon, che era sempre stata malinconica e nervosa, dopo la sciagura capitata al nostro cherubino, cominciò ad agitarsi più che mai e si sprofondò nella devozione con tanto fervore che a volte avreste quasi detto che fosse impazzita. Si immaginava di avere delle visioni. Diceva che un angelo del paradiso le aveva annunciato che la morte di Brian serviva a castigarla per aver trascurato il suo primogenito. Oppure asserviva che Ballindon era vivo. Lo aveva visto in sogno e poi era scossa da accessi di angoscia per la sua morte. Lo piangeva con violenza inaudita, come se fosse stato lui l'ultimo dei suoi figli a morire e non il nostro amato Brian. Brian, che in confronto a Ballindon era come un diamante rispetto a un ciottolo qualsiasi. Era doloroso assistere alle stramberie di Milady, ma anche tenerla a bada era difficile. Nei dintorni si iniziò a dire che la contessa stava impazzendo. Quei farabutti dei miei nemici non mancarono di confermare e gonfiare la diceria, aggiungendo che ero io la causa della sua demenza. Io le avevo fatto perdere il senno, avevo ucciso io Ballindon, anche mio figlio l'avevo assassinato io. Non so di cos'altro ancora mi facessero carico. Perfino in Irlanda fui raggiunto da queste odiose calunnie e i miei amici non si fecero più vedere. Incominciarono a disertare le mie partite di caccia, come avevano fatto in Inghilterra, e quando li incontravo alle corse o al mercato, trovavano lì per lì un buon motivo per allontanarsi dalla mia presenza. Mi guadagnai il soprannome di Perfido Barry, o Lyndon il Diavolo, come più vi piace. La gente di campagna inventava delle leggende straordinarie sul mio conto. I preti dicevano che nella guerra dei sette anni avevo massacrato non so quante suore tedesche e che da quando avevo ammazzato Ballindon il suo spettro infestava la mia casa. Una volta, alla fiera in una cittadina dei dintorni, mi ero quasi deciso a comprare una camicia per uno dei miei domestici quando un tizio lì vicino disse: «È una camicia di forza, la compra per Milady Lyndon!» E da questo episodio nacque tutta una storia sulla mia crudeltà verso mia moglie. E vi erano narrate nei minimi dettagli le mie ingegnose tecniche di tortura. La perdita del mio caro ragazzo non solo pesava sul mio cuore di padre, ma danneggiava anche i miei interessi, e in misura molto considerevole. Ora mancava un erede diretto alle proprietà e, d'altra parte, sembrava assolutamente improbabile che Lady Lyndon, cagionevole com'era, si lasciasse dietro altri figli. Perciò i più prossimi alla successione, cioè i Tiptoff, quell'odiosa famiglia, cominciarono a darsi da fare in mille maniere per darmi fastidio e si misero a capo della fazione dei miei nemici che spargeva notizie volte a screditarmi. Si intromettevano tra me e l'amministrazione dei miei beni in tutti i modi possibili. Gridavano allo scandalo ogni volta che tagliavo un ramoscello, o scavavo un pozzo, o vendevo un quadro, o mandavo a rimodellare 4 once di argenteria. Mi tormentavano senza sosta con le loro cause in tribunale, ottenevano ingiunzioni di pagamento dalla Corte di Giustizia, intralciavano i miei amministratori nell'esecuzione dei loro compiti. Avreste creduto che ciò che era mio non fosse mio, ma loro, da farne ciò che più volevano. E quel che è peggio, ho motivo di credere che avessero brighe e maneggi anche con i domestici sotto il mio stesso tetto, perché non potevo scambiare una parola con Lady Lyndon senza che in qualche modo la si risapesse altrove, e non potevo neanche sbronzarmi con il mio cappellano e gli amici senza che dei mascalzoni dall'aria serafica si mettessero in tasca la notizia, facendo anche il conto di tutte le bottiglie che avevo bevuto e di tutte le bestemmie che avevo tirato. Beh, queste non erano poche, lo ammetto. Io sono della vecchia scuola. Sono sempre stato un uomo che vive e parla liberamente. Ma se facevo e dicevo quello che mi andava a genio, almeno non ero colpevole quanto un maledetto ipocrita. Ne conosco tanti che nasconde le sue debolezze e i suoi peccati sotto una maschera di santità, senza che nessuno sospetti di lui. Io sto spiattellando tutto, da cima a fondo, e non sono un ipocrita. Perciò tanto vale che ora confessi anche di aver tentato di difendermi dalle astuzie dei miei nemici con uno stratagemma che forse non era strettamente giustificabile. Tutto dipendeva dall'avere o no un erede per la proprietà. Infatti, se Lady Lyndon, che non godeva di buona salute, fosse morta, da un giorno all'altro io mi sarei ritrovato a chiedere la carità. Tutti i miei sacrifici in denaro e in altra forma a favore della proprietà non mi sarebbero valsi neppure un soldo. Tutti i debiti, invece, mi sarebbero rimasti sulle spalle e i miei nemici avrebbero trionfato su di me. E questa, per un uomo come me, che ha per natura un forte senso dell'onore, la ferita meno gentile di tutte, l'ha detto non so quale poeta. Confesso, dunque, che avevo voglia di soppiantare quei mascalzoni, e visto che non potevo farlo senza avere un erede per le mie proprietà, decisi di trovarne uno. Se questo erede io l'avessi allora a portata di mano e per giunta del mio stesso sangue, benché della mano sinistra, non è questione da discutere qui. Ma fu allora che scoprì le infami macchinazioni dei miei nemici. Avevo messo al corrente di questo piano Lady Lyndon, che credevo fosse, almeno esteriormente, la più obbediente delle mogli, e comunque non lasciavo mai che una lettera scritta da lei, o a lei destinata, partisse o arrivasse senza venire esaminata da me, e non le permettevo neanche di vedere nessuno all'infuori di quei pochi che ritenevo adatti a farle compagnia con la sua salute delicata. Eppure, quei diavoli dei Tiptoff ebbero sentore del mio progetto e si misero subito a protestare, non solo per lettera, ma anche facendo stampare diffamazioni vergognose, e mi additarono al pubblico odio come un falsificatore di bambini. Così mi chiamavano. Io naturalmente smentii l'accusa. Non potevo fare altro. E mi offrii di incontrare uno qualunque dei Tiptoff sul terreno dell'onore per dimostrare che era uno sporco bugiardo, come di fatto era, benché forse non in questo caso. Ma loro si contentarono di farmi rispondere da un avvocato, rifiutando un invito che qualunque uomo di carattere avrebbe accettato. Così, grazie a loro, ogni mia speranza di avere un erede andava a monte, e in più la stessa Lady Lyndon, per quanto, come ho già detto, le sue obiezioni per me contassero men che niente, si oppose alla proposta con tutta l'energia che poteva mostrare una donna debole come lei. Diceva di aver già commesso una grave colpa per causa mia e che sarebbe morta piuttosto che commetterne un'altra. Io sarei anche riuscito e facilmente a far ragionare sua signoria, ma ormai il mio piano era su tutte le bocche e tentare di realizzarlo era inutile. Anche se avessimo avuto altri 12 figli legittimi al 100%, la gente avrebbe continuato a dirli bastardi. Quanto a raccogliere denaro, riscattando le quote assicurative di Lady Lyndon, devo ammettere che avevo dato fondo in anticipo a tutta l'indennità. Ai miei tempi esistevano ancora poche di quelle società di assicurazioni che sono poi spuntate come funghi nella City di Londra. Pochi firmatari di polizze si spartivano tutti gli affari e credo che non ci fosse un cristiano la cui vita loro conoscessero meglio di quella di mia moglie. L'ultima volta che avevo chiesto di assicurarla sulla vita, quei farabutti avevano avuto l'impudenza di dirmi che, considerato il modo in cui la trattavo, non potevano garantirle neanche un anno, come se fosse stato nel mio interesse ucciderla. Se il mio bambino fosse rimasto in vita, sarebbe stata tutta un'altra faccenda. Lui e sua madre avrebbero potuto scorporare una buona parte della proprietà e tenersela come lascito inalienabile, e i miei affari si sarebbero un po' riassestati. Ora invece erano veramente in cattive acque. Tutti i miei stratagemmi si erano risolti in altrettanti fallimenti. Le mie terre, essendo state acquistate con denaro preso in prestito, non mi rendevano nulla, ed ero anche obbligato a pagare interessi rovinosi sulle somme con cui le avevo comprate. Il mio reddito, benché molto elevato, era oberato di centinaia di pagamenti annuali e migliaia di onorari d'avvocato, e io sentivo la rete stringersi sempre di più attorno a me, e non trovavo alcun modo di districarmi dai suoi lacci. A tutte le mie difficoltà se ne aggiunse ancora un'altra. 2 anni dopo la morte del mio povero bambino, mia moglie, dopo che per 12 anni avevo sopportato i suoi sbalzi di carattere, le stravaganze, i capricci e le follie, si mise in testa di lasciarmi e fece addirittura ripetuti tentativi di sfuggire alla mia tirannia, come lei diceva. Fu mia madre l'unica persona che mi fosse rimasta fedele nelle avversità. Del resto mi ha sempre visto nella mia vera luce, descrivendomi come un martire della perfidia altrui e una vittima del mio stesso carattere troppo generoso e fiducioso. Fu lei a scoprire il primo progetto di fuga che già si stava preparando. I principali promotori del piano erano, come al solito, quelle furbissime canaglie dei Tiptoff. Devo anzi dire che mia madre, benché avesse un carattere irascibile e abitudini bizzarre, era per me una persona inestimabile da avere attorno. La casa sarebbe andata a carte 48 da lungo tempo se non fosse stato per il suo senso dell'ordine, le sue capacità organizzative, la sua eccellente gestione nelle finanze e di tutto il personale. Quanto a Milady Lyndon, lei, povera donna, era una signora di gran lunga troppo fine per occuparsi delle faccende di casa. Passava la giornata con il suo dottore o tra i libri di devozione. Non compariva mai tra di noi, a meno che non la costringessi, e allora si poteva star certi che lei e mia madre avrebbero finito per litigare. Mia madre, al contrario, aveva un talento organizzativo che si rivelava in tutti i campi. Faceva correre le domestiche e teneva i lacchè al loro posto. Teneva d'occhio il vino rosso nella cantina, così come l'avena e il fieno nella stalla. Sorvegliava la salatura e la salamoia, le cataste di patate e di torba, il macello dei maiali e la cura del pollame, il guardaroba e il forno del pane e tutte le 10.000 minuzie della vita di una grande casa. Se ogni massaia irlandese fosse come lei, vi garantisco che in molte case il fuoco si alzerebbe fiammeggiando nel camino della sala, dove adesso crescono solo ragnatele, e molte tenute sarebbero popolate di pecore e bestiame grasso, mentre ora i cardi ne sono i principali occupanti. Se c'era qualcosa che avrebbe potuto salvarmi dalle conseguenze della malvagità altrui, e anche dagli effetti del mio carattere troppo arrendevole, generoso e non curante, era l'ammirevole previdenza di quella degna creatura. Non andava mai a letto finché tutta la casa non era tranquilla e tutte le candele spente. Potete immaginare che la cosa non fosse facile con un uomo del mio stampo, abituato ad avere regolarmente una dozzina di allegri compagni, furboni e falsi amici per la maggior parte, a bere con me sera dopo sera. Un uomo che, in fin dei conti, ben di rado, andava a dormire sobrio. Molte, moltissime sere, quando io non m'accorgevo nemmeno più che lei mi aiutasse, quella buona donna mi ha tolto gli stivali, ha sorvegliato i domestici che mi deponevano nel mio comodo letto, ha portato via lei stessa la candela e di mattina è stata la prima ad alzarsi per venire a portarmi il mio bicchiere di birra leggera. Lasciatemelo dire, non erano tempi da lattanti i miei. Un gentiluomo non si vergognava di scolarsi la sua mezza dozzina di bottiglie. E quanto a questi vostri caffè e brodini, li si lasciava a Lady Lyndon, al suo dottore e alle altre vecchie. Era l'orgoglio di mia madre che io bevessi più di qualsiasi altro uomo in Irlanda, proprio quanto mio padre, diceva lei, o al massimo una pinta di meno. Che Lady Lyndon la detestasse era del tutto naturale. Non era certo la prima donna, o se è per questo il primo essere umano, a odiare la propria suocera. Incaricai mia madre di tener ben d'occhio le stravaganze di mia moglie. Ed era anche per questo, naturalmente, che Milady non la poteva soffrire. Ma a me, di questo, non me ne importava nulla. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.